Cerbero è un cane a tre teste della mitologia greca, che custodisce dell'ingresso degli inferni. È un essere feroce e immortale, che impedisce a lui di entrare e ai morti di essere, secondo i miti dell'antica Grecia, non sono un cane qualunque che morisce nella lotta, mi hanno dato tre teste per non essere malvito. Vigilare per tutta la vita sulle porte dell'inferno, chi avesse intenzione di fare questo viaggio. Prima di vedere Caronte, dovrebbe affrontare me. Cosa posso dirvi di più? Che il mondo a cui appartengo è di ombre, non di luce, stretto e limitato. In questo libro c'è un piccolo posto per me e la mia solitudine.